Quei soldi sono dell'ingegner Chiesa. Sbagliato, quei soldi sono nostri, avvocato. Controlli lei stesso. Ho firmato tutte le banconote. Mi dispiace, ma il suo assistito è in arresto per concussione. Capitano, occhio, Ci servono dei fatture, libri contabili, tutto quello che trovate. Va bene? Certo, dottore, stiamo esaminando tutto. Allora, qualche dubbio, avvocato? Guardiamo. Almeno in bagno si può andare, sì? Si sbrighi. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Gardini diceva a me delle cose che non diceva nemmeno in famiglia. Gardini era un leader, un capo, un autocrate. Io lo chiamavo il faraone. Storie di tangenti e di maestri elementari, in una puntata tutta dedicata al vizio dell'avarizia. Oggi a Milano c'è una giornata particolarmente uggiosa, è la giornata che tutti pensano quando pensano a Milano, cioè quando non si conosce questa città o la si frequenta poco o la si frequenta poco e male, per cui se ne apprezzano solo le parti più grigie. Questa è esattamente la città che ti viene in mente, perdonatemi, la giornata che ti viene in mente in questa città è uggiosa, è grigia, c'è quella pioggerellina che non scende nemmeno, sembra sospesa nell'aria, per cui fai 100 metri, non la senti cadere, ma alla fine sei bagnato. Fa freddo, ma non è nemmeno un freddo terribile, è semplicemente molto umido. Non so che tempo ci fosse qui a Milano il 17 febbraio del 1992. So però che cosa è successo in questa giornata, esattamente 28 anni fa. Lo so io e lo sanno tutte le persone che hanno ad esempio visto quella splendida serie da cui abbiamo preso un estratto in apertura di puntata che si chiama 1992, perché è stato in quell'anno che qualcuno dice è venuto giù tutto. Quello che è successo poi lo sappiamo, che diciamo che tutti quelli che devono pagare abbiano pagato non lo sappiamo, ma di fatto quello che è stato Tangentopoli e quello che è stato Mani Pulite in questo paese e in questa città sono sicuramente sono una linea di confine. Linee d'ombra racconta storie che stanno al di qua e al di là di quel confine, di persone che si sono trovate in una zona buia della propria vita e che sono passate dall'altra parte o semplicemente ci sono rimaste. Sicuramente una di queste persone è Sergio Cusani. Quando si pensa a Mani Pulite, quando si pensa a Tangentopoli, vengono in mente grosso modo due persone. Una persona è Antonio Di Pietro, una persona è Sergio Cusani. E sembrano davvero rappresentare per macrosistemi la luce e la notte, i buoni e i cattivi. Tendiamo sempre a farlo quando raccontiamo delle storie, cerchiamo di capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Poi forse le linee di confine non sono così marcate e quelli che noi pensiamo essere buoni non sono forse sempre così buoni o non lo sono in assoluto e di conseguenza non lo sono nemmeno i cattivi. Io mi ricordo esattamente dove ero, ancora non conoscevo questa città. Nel 1992 vivevo a Romentino, il mio paese in provincia di Novara, andavo a scuola a Novara, però mi ricordo che grosso modo era febbraio ed era freddo quando, tornando a casa da scuola in macchina con mio padre, si sentì parlare alla radio, al giornale radio, di che cosa era stato, di cosa era appena cominciato. Qualcuno aveva detto potrebbe veramente essere rivelatorio per un intero sistema che parlava di tangenti e di concussione. Era la prima volta in vita mia che sentivo parlare di concussione, poi ho scoperto che la concussione è quel reato per cui i pubblici ufficiali abusano delle proprie possibilità, delle proprie funzioni in modo da promettere, diciamo così, in maniera indebita a lui a un terzo del denaro. E questo è quello che è successo in questa città e in gran parte di questo paese in quegli anni. Era il 1992, era il 17 febbraio del 1992, la puntata parla di avarizia. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. That was love and to make us it was over. E che cosa se non l'avarizia, se non l'avidità è stato il motore di quello che è successo in questo paese e in questa città durante Tangentopoli e durante il periodo di Mani Pulite, che è durato diversi anni ma che è cominciato esattamente 28 anni fa. Era il 17 febbraio del 1992 e Mario Chiesa veniva, come si dice, colto con le mani nel sacco. La storia che stiamo per raccontarvi è una storia che ha raccontato molto bene Paolo Biondani in un'inchiesta dell'Espresso che intitolava "Così è nata l'inchiesta Mani Pulite". Milano, 17 febbraio 1992. Mario Chiesa, presidente socialista dello storico ospizio Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato in flagrante nel suo ufficio, mentre nasconde nel cassetto della scrivania una busta con 7 milioni di lire in contanti. È una tangente che gli ha appena consegnato un piccolo imprenditore taglieggiato di Monza, Luca Magni. È il primo che ha avuto il coraggio di denunciare le continue richieste di soldi in cambio degli appalti. Quella bustarella in realtà è una trappola. La procura di Milano indaga per concussione, è un reato simile all'estorsione, e ha convinto la vittima a collaborare. Le banconote sono state fotocopiate in procura. Una ogni 10 è firmata dall'allora pubblico ministero, si chiama Antonio Di Pietro, e dal capitano dei carabinieri, Roberto Zuliani. La tangente è la metà della somma totale pretesa da Chiesa. 14 milioni di lire, pari al 10% del valore dell'appalto, che sono 140 milioni. L'appalto era per le pulizie dell'albergo Trivulzio. L'arresto con le mani nel sacco, come titolano i giornali, crea scandalo attorno a un enorme sistema di potere. A scoperchiare lo scandalo era stato un anziano cronista del Giorno, si chiama Nino Leoni, quando pubblica le prime denunce sul Pio Albergo Trivulzio per sospetti favoritismi a imprese di pompe funebri, Chiesa subito lo querela. Invece di scaricare sul giornalista l'onere di provare che ha scritto sempre e soltanto la verità, per una volta il PM di turno, che è appunto Antonio Di Pietro, decide di indagare seriamente su quell'articolo e apre un fascicolo alternativo. Si procederà per diffamazione solo se risulterà infondata la notizia della corruzione. Quando viene arrestato, quindi, Mario Chiesa è da mesi sotto intercettazione. E dalle sue telefonate, in codice, Di Pietro ha già scoperto che quel politico, diventato manager pubblico, nasconde miliardi di lire in Svizzera, su conti correnti battezzati con nomi di acque minerali, Fiuggi, Levissima. Bettino Craxi si sente per la prima volta sotto assedio a Milano il 3 marzo del 92, un paio di settimane dopo. Tenta di circoscrivere il caso Chiesa. Intervistato dal TG3, il segretario del PSI dichiara: «Una delle vittime di questa storia sono proprio io. Mi trovo davanti a un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi contro la pubblica amministrazione». La frase ovviamente viene riferita in carcere all'arrestato, che si sente ormai scaricato e isolato. Circa un mese dopo, il 23 marzo del 92, Mario Chiesa quindi rompe il muro dell'omertà e firma la sua prima confessione fiume. Parla di appalti truccati da decenni, chiama in causa decine di piccole, medie e grandi aziende, rivela di avere diviso i soldi con politici di rango nazionale. È il primo di una serie di interrogatori che svelano ai magistrati il sistema di corruzione. Prima c'era solo il caso Chiesa. Da quel verbale nasce ufficialmente Tangentopoli. To the ching, ching, ching of the cash. From the end, end, end of the friendships. To the whack, whack, whack of the match. Corruption, corruption, corruption rules my soul. Corruption, corruption, corruption rules my soul. From the tick, tick, tick of your time's up to the in questa puntata dedicata all'avarizia, come vi stiamo raccontando dall'inizio, nella giornata che è la giornata che ricorda proprio l'anniversario dell'inizio di Tangentopoli, di Mani Pulite, insomma, chiamatelo come volete. Era appunto il 17 febbraio di 28 anni fa, il giorno in cui Mario Chiesa veniva letteralmente colto con le mani nella marmellata mentre riceveva una tangente. E noi, oltre all'inizio di questa storia, vogliamo raccontarvi anche la storia di un'altra persona che rappresenta, dicevamo in apertura, è sicuramente uno dei protagonisti di quella storia, uno dei protagonisti che di fatto credo abbia vissuto una sua redenzione anche proprio agli occhi dell'opinione pubblica, perché per tutti Sergio Cusani era stato uno dei cattivi. Ricordiamo il suo viso magro, scavato, che racconta la sua, e sentiremo la sua voce proprio da quella testimonianza che lui rilascia in tribunale, e che è l'unica intervista video che lui abbia fatto. Non era un'intervista di fatto, appunto, era semplicemente un video che riprendeva la sua testimonianza. Sergio Cusani non ha mai rilasciato interviste, non ha chiaramente mai partecipato a nessun programma radiofonico, non è nemmeno qui con noi, mi sembra evidente. Però c'è una storia che lui ha raccontato a Claudio Sabelli Fioretti un bel po' di anni fa, 20 anni fa, nel 2003, poco dopo aver chiuso i suoi conti con la giustizia, avere pagato il suo debito sia da un punto di vista penale sia da un punto di vista civile, per cui ha pagato in miliardi, insomma in lire o in euro quello che doveva pagare alla giustizia, e ha pagato anche la sua pena in carcere. Rilasciava questa intervista per Sette, in cui raccontava una storia diversa da quella che tutti quanti conoscevano, la sua storia di vita, chi era Sergio Cusani da ragazzo, come ha cominciato a studiare, come ha chiuso con la sua famiglia, con il padre. Gabriele Cusani era un industriale molto molto importante, e poi come ha deciso di prendere la strada sbagliata. Queste sono direttamente le sue parole. Sono stato colpito da accuse tremende, da parole terribili. Mi sono preso del traditore, tre volte traditore, di Gardini, di Same, famiglia Ferruzzi, dei politici, anzi quattro volte traditore, perché è stata giunta la giustizia. Ma questo non basta, perché in più avrei portato Raul Gardini a una tale disperazione da armargli la mano per il suo suicidio, praticamente un assassino. Il 68 io l'ho vissuto alla Bocconi. La Bocconi era un po' il college dei rampolli della ricca borghesia milanese, dei Quintavalle, degli Olivetti. Era un ambiente conservatore. Marx alla Bocconi non veniva nemmeno nominato. Solo Pareto. La contestazione fu per molti un'illuminazione. Si cominciò a discutere di tutto, di distribuzione del reddito, di capitalismo, di sottosviluppo. Alla Bocconi la contestazione arrivò in ritardo rispetto alla statale, ma quando la Bocconi fu coinvolta, divenne il centro dell'elaborazione teorica, delle discussioni sui processi economici. Si studiava un sacco. Per contestare i professori di fronte agli studenti dovevamo prima studiare le teorie classiche e poi Marx. Insomma, studiavamo come matti. Il rettore era Giordano Dell'Amore, un uomo navigato, potente. L'accordo era: se non fate come la statale, dove spaccate tutto, io vi lascio fare. E funzionò. Funzionò fino al 23 gennaio del 73, quando per la prima volta lui ci fece trovare l'università chiusa e la polizia fuori. Ci fu la famosa carica, dove rimase ucciso con un colpo alla nuca Roberto Franceschi. Dopo due giorni andammo nell'aula dove Dell'Amore insegnava tecnica bancaria e lo cacciammo dall'università. Roberto era un giovane del mio collettivo, era un mio amico, veniva spesso a mangiare a casa mia. Era l'enfant prodige del movimento, studiava moltissimo, aveva la stoffa del leader. Quella sera era al mio fianco. Ricordo che sentii il fischio della pallottola che lo uccise. Mio padre era un aristocratico, un industriale. Per questo mi chiamano il Barone Rosso, per via delle origini nobili. Ma nel 73, di fronte al mio rifiuto di seguire la sua strada, lui aveva venduto tutte le sue industrie. I miei genitori non li volli nemmeno al mio matrimonio. Quegli anni però, quelli della contestazione, furono meravigliosi. Poi venne il riflusso, i gruppi si sciolsero, ci fu chi scelse di entrare nella lotta armata. Non quelli del movimento studentesco, che erano contrarissimi. Le BR, bisogna dirlo, godevano di molta simpatia nelle fabbriche e anche all'interno del PC. Ma nessuno del movimento studentesco è finito nella lotta armata. tutti in mille rivoli, PC, manifesto, PSI. Molti finirono nel privato. Io finii in borsa. Ero amico di Piero Ravelli, che aveva fondato un movimento maoista. Suo padre, Aldo, era il più grande commissionario di borsa d'Italia. Disse a me, a Piero, suo figlio, venite a lavorare da me. Io avevo rotto con la mia famiglia. Ravelli era molto legato al PC, all'avvocato Maris, senatore comunista. Erano stati assieme in campo di concentramento. Lui era socialista, legato ai socialisti, era amico di Craxi. Era ricchissimo e finanziava socialisti e comunisti. Ravelli era uomo di grande personalità. Mi disse, domattina presentati con un vestito decente. Io andai alla Rinascente, mi comprai un abito. Il giorno dopo andai in borsa, una gabbia di matti. Andai da Ravelli e gli dissi, io non ce la faccio. E lui, tieni duro. E la vissi come una sfida. Volevo dimostrare a mio padre che per guadagnare dei soldi non era indispensabile essere dei geni. Mio padre era cliente di Ravelli. Capitò che io dovessi amministrare un piccolo capitale di mio padre. Erano 80 milioni. Lo persi nel giro di un mese e mezzo. Ravelli mi disse, perdendo i soldi di tuo padre hai imparato più di quello che avresti potuto imparare in 10 anni di borsa. Sì, certo, però intanto avevo perso i soldi di mio papà e c'ero rimasto malissimo. La mattina andavo a prendere Ravelli a casa. Lavoravo moltissimo perché volevo imparare rapidamente. Il secondo anno che stavo con lui, d'agosto, lui era a Cortina in ferie, mi trovai in borsa, al banchetto, da solo, durante la scalata di Rovelli alla Monte Gemina, una guerra pazzesca per la conquista della Monte Edison. Un macello. Ma me la cavai. Stranezze della vita. Ho iniziato con la Monte Edison e ho finito con la Monte Edison. In pratica, tutto ciò che si dice, tutto ciò che si fa, tutto ciò che si dà, si corre il rischio di vederselo ritorto e cadere addosso, inesorabilmente contro. Nonostante questa amara considerazione, io rifarei lo stesso percorso. Ho dato un taglio netto e non tornerei per tutto l'oro del mondo indietro. Io la mia svolta l'ho fatta, ho svoltato. Questa puntata l'avete sentito in apertura, è dedicata all'avarizia, ma cade il 17 di febbraio, a distanza di 28 anni da quel giorno, da quel 17 febbraio del 92, in cui Mario Chiesa veniva di fatto al Pio Albergo Trivulzio colto con le mani nel sacco mentre riceveva una tangente. In apertura abbiamo sentito proprio un brano tratto da quella splendida serie che è 1992, che racconta esattamente quel momento. Per sapere un po' di più su quella serie e anche per sapere di più su quel periodo, noi abbiamo il piacere di avere con noi la sceneggiatrice di 1992, che è Ludovica Rampoldi. Pronto Ludovica, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie per essere qui, Ludovica, innanzitutto. Ludovica ha scritto, oltre a 1992, diversi film con Salvatore e Bertolucci, ha lavorato anche al Traditore, che insomma è uscito da poco, insomma lavori tantissimo in cinema e in TV, però Ludovica, noi vorremmo sapere tutto di come è nato 1992. Innanzitutto, la serie è nata per volontà di Sky, di un produttore, oppure perché c'era da parte vostra, da parte degli autori, la volontà di raccontare quel pezzo d'Italia? Ma come forse molti ricorderanno, la serie è nata da un'idea di Stefano Accorsi, no? Che era quasi diventata una logline. Certo. Perché Stefano Accorsi aveva avuto un'idea molto intelligente, che era quella di raccontare 20 anni di storia dalla parte, diciamo, di quelli che non sono sempre stati raccontati dalla fiction italiana. Se pensi alla Meglio Gioventù, per esempio, raccontava una tranche di storia italiana dalla parte, diciamo, da una parte, da un'ottica di sinistra, mm-hmm. ok? Quello che invece si pensava fosse interessante o anche un po' spericolato provare a fare era mettersi nel punto di vista dei cosiddetti uomini nuovi, cioè gli uomini che nella Seconda Repubblica sono stati i vincitori. Certo. E quindi questo significava raccontare però 20 anni di storia, e quindi con un passo di racconto un po' complicato per una serialità contemporanea. E quello che noi abbiamo, io, Stefano Sardo e Alessandro Fabri, che sono i co-creatori della serie insieme a me, abbiamo pensato di fare una specie di zoom su invece 3 anni fondamentali, prendendoli come spartiacque tra quello che eravamo e quello che siamo diventati. La serie, come sapete, inizia esattamente 28 anni fa, il 17 febbraio del 1982, con l'irruzione al Pio Albergo Tribuzio della squadretta di Di Pietro, e da lì da quella che sembrava una tangente piccola di 6 milioni, un fatto, come dire, trascurabile, invece quella palla di neve ha continuato a rotolare fino a diventare una valanga che ha poi travolto un intero sistema politico, creando poi il vuoto sul quale si sono innestate le nuove forze. Ludovica, ricordo male o c'entra la moglie di Chiesa nella denuncia? Sì. Sì, questo è interessante, come spesso poi la storia prenda delle svolte, come dire, sorprendenti a seconda dei caratteri che la interpretano, no? Per esempio, Mario Chiesa era in quei mesi in una causa di divorzio con la moglie, e che lamentava la moglie il fatto che il marito non dichiarasse tutti i soldi che aveva, e quindi gli alimenti venissero calibrati solo su quello che lui dichiarava, e fu lei a far emergere di fronte ai magistrati l'esistenza di 2 conti in Svizzera che avevano i nomi un po' buffi di Fiuggi e Levissima, e a partire dalla scoperta dei quali poi si è arrivato a ricostruire il sistema di corruzione capillare che governava il paese in quegli anni. Ludovica, lavorando per così tanto, voi avete cominciato a scrivere la serie nel 2011, sì. E ci avete lavorato parecchio, immagino, alla storia, alle testimonianze. Ecco, lavorando insieme agli altri sceneggiatori di 1992 a questi uomini nuovi o ai cattivi, anche se vogliamo, che hanno rappresentato un pezzo della nostra storia recente, avete capito qualcosa di particolare su questo paese? O qualcosa di diverso rispetto a quello che era stato raccontato fino ad allora? Abbiamo capito che un po' veramente quei temi che sono stati sollevati da quella grande frattura non sono ancora stati risolti. Per esempio il conflitto tra magistratura e politica è più che mai attuale, ed è, come dire, qualcosa che ancora non si è sanato e con il quale non si è ancora venuto davvero a patti. E sono ferite ancora aperte anche adesso che è uscito Mamet e tutte le polemiche, è come se fosse un periodo che ancora forse non è stato storicizzato. Sì, forse non è stato nemmeno digerito. Se per caso, esatto, avete voglia però di saperne, di sapere qualcosa di più, guardatelo davvero, 1992, questo potrebbe essere il giorno giusto per iniziare a guardarvi la serie, se per caso non l'avete ancora fatto. Grazie davvero a Ludovica Rampoldi per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto, a presto. Freddy, grazie, ciao. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso, un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E ora raccontiamo storie d'avarizia in un altro modo. Salutiamo l'anniversario dell'inizio di Mani Pulite, del caso Tangentopoli, appunto della scoperta di Mario Chiesa, che si intasca una tangente il 17 di febbraio del 1992. Andiamo da un'altra parte, parliamo di avarizia raccontando che cosa significa essere quello che gli altri pensano che noi siamo, ma soprattutto non esserlo. Vi spiego in pochissimo tempo. C'è un pochettino in tutti i paesi, soprattutto soprattutto nei paesi, più che nei quartieri o nei condomini, insomma in tutte le comunità, c'è di solito la figura che è considerato il più avaro di tutti, il taccagno, lo spilorcio, quello che non stacca una lira manco se lo si paga, appunto. E devo dire che quelle sono figure mitologiche quasi, no? Che vanno da Zio Paperone a Scrooge. Ecco, nella prossima storia che sto per raccontarvi, che ci ha mandato Andrea, si parla di una di quelle figure, di un maestro elementare, spilorcio e taccagno fino all'Elsa, proprio fino dentro alla sua anima, che in realtà però nasconde una enorme sorpresa, perché non tutta l'avarizia viene per nuocere. Villa Strada è un piccolo paese immerso nella campagna mantovana, adagiato sulle sponde del Po, che ne delimita il confine con la vicina Emilia. Nonostante non arrivi a 900 anime, può vantare, oltre ad un piccolo castello, anche il bellissimo teatro sociale, dove recitarono tra gli altri Delia Scala e Gino Cervi. Fu eretto nel 1910, grazie alla volontà di 30 famiglie benestanti che investirono una somma ingentissima per l'epoca, 54.000 lire, equivalenti a circa 2 milioni e mezzo di euro. Ne scaturì un gioiello sia tecnico, grazie all'acustica perfetta, sia architettonico, con la sua facciata neoclassica che lasciò senza parole i presenti all'inaugurazione, che avvenne il 27 aprile con il Barbiere di Siviglia. La storia del teatro la conosco perché prima di tutto io sono di questo paese di Villa Strada, quindi un paese di campagna molto piccolo, per cui è una storia curiosa che è circolata, che noi tutti in paese sappiamo. Uno spunto dalla storia l'ho avuto da vari articoli che sono usciti e da lì poi mi sono informato, c'è l'associazione degli amici del teatro, ci sono varie fonti, insomma, qui in paese che un po' conosciamo, per cui da lì ho preso le informazioni per questa storia, insomma. A dire il vero, qualche parola rimase all'allora giornalista della Gazzetta di Mantova, presente all'evento, che lo giudicò con tono sprezzante un diamante al dito di un contadino, poiché non si capacitava che una piccola frazione di campagna potesse vantare cotanta bellezza. Ma non è di invidia che parliamo oggi. Per molti anni rappresentò l'unica attività ricreativa del paese. Poi, dopo la guerra, fu adibito anche a cinema e la diffusione della televisione ne offuscò l'antico splendore fino alla definitiva chiusura, che avvenne nel 1965, quando le famiglie proprietarie non se la sentirono di sostenere le ingenti spese necessarie a rimetterlo in sesto. Da allora fu abbandonato al suo destino senza altre opere di manutenzione, per poi finire ulteriormente deturpato dai vandali, che ne distrussero i meravigliosi interni, rubando tutto il possibile e sfregiando il resto. Il colpo di grazia venne con la terribile nevicata dell'85, che fece crollare il tetto, decretandone la fine. In paese non tutti, però, si rassegnarono al triste epilogo. Soprattutto lo storico maestro elementare Pietro. Classe 1921, è figlio di uno dei fondatori del teatro, che coinvolse l'amico commercialista Lauro, già presidente della Banda Filarmonica Comunale, l'unico ritenuto in grado di riuscire nella titanica impresa di farlo risorgere. Cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back and I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm working on a dream. And sometimes it feels so far away. I'm working on a dream. I know it will be mine someday. Rain pouring down, I swing my hammer. My hands are rough from working on a dream. From working on a dream. I'm Oltre all'ingentissima somma ipotizzata per il restauro, cioè oltre 2 milioni di euro, un grande scoglio era rappresentato dall'estrema frammentazione delle proprietà, che ne impediva l'esproprio. La svolta avvenne quando Lauro, la mente, scoprì la legge del condominio teatro, che permette a chi detiene almeno il 30% delle quote di espropriare il bene qualora richieda interventi eccezionali che gli altri condomini si rifiutino di fare. Fu la svolta. Pietro e Lauro cominciarono a girare per Villa Strada a caccia delle quote appartenenti alle famiglie ancora residenti, racimolandone 11, che però non bastarono. Il problema era che alcuni proprietari, dopo la guerra, espatriarono all'estero, in Australia, in Argentina, in Brasile. Così si dovette far pubblicare nelle ambasciate di mezzo mondo la volontà di esproprio, per dare il tempo agli eventuali eredi di opporsi. Trascorsi 90 giorni, andarono dal notaio a riscattare il teatro, mettendo nero su bianco la volontà di intraprendere la folle idea di riportarlo in vita. Sì, ma dove trovare i denari per la ristrutturazione? Lauro si ingegnò come poté, cercando fondi in ogni ambito politico e culturale, oltre a far conoscere il progetto a possibili finanziatori. Riuscì a racimolare una bella sommetta che però bastò solo a rifare il tetto e mettere un minimo in sicurezza l'edificio pericolante. Ed è qui che entra in scena il maestro Pietro, vero protagonista della storia, non proprio uno spendaccione. Tramesso che paese ci conosciamo un po' tutti, però essendo molto più una persona anziana non è che avessi un rapporto particolare con il maestro. Per quello che potevo vedere era sicuramente una persona molto colta e molto riservata. Me lo ricordo che era sempre vestito uguale, proprio sempre tutto l'anno, con gli stivali di gomma, con il suo particolare vestito che era uguale tutto l'anno. Era sempre su una bicicletta ed era una persona benestante, ma molto molto molto parsimoniosa. Questa è una caratteristica che lo ha contraddistinto, insomma. Nato da una famiglia benestante, era un tipo particolare il maestro. Me lo ricordo sempre vestito uguale. Ai piedi gli immancabili stivali di gomma, in ogni stagione, perché si diceva così risparmiasse pure sul lucido da scarpe. Sempre in giro in bici, perché un'auto costava troppo. Figuriamoci poi una moglie. No, meglio stare da soli. Viveva in una bellissima casa, ma senza riscaldamento e acqua corrente, e pare campasse a latte e pane secco. D'altronde, se ambisce a diventare il più ricco del cimitero, non puoi lasciare nulla al caso. Sì, perché qui, più che di vita morigerata, parliamo di un vero fuoriclasse dell'avarizia. Un campione di taccagneria, un T-Rex con le braccine amputate, come forse solo nella civiltà contadina si possono trovare. Quali frutti abbia dato una vita del genere si scoprì solo qualche mese dopo la sua morte, quando il notaio lesse il rogito dove, tra i vari lasciti, nominò l'Associazione Amici del Teatro beneficiaria di quasi 1,5 milioni di euro, oltre alla sua bellissima villa a 3 piani, in stile Liberty. Nonostante mancasse ancora 1 milioncino per il restauro completo, con un patrimonio del genere si riuscì a cominciare a gran parte dei lavori e a coinvolgere altri finanziatori nell'ambizioso progetto che fu portato a termine il 15 ottobre del 2011, data in cui il teatro riaprì il sipario, tornando allo splendore di un tempo. Quel giorno me lo ricordo bene. Tutto il paese era in festa, traboccante d'orgoglio, con l'unica nota triste rappresentata dal palco riservato al maestro, ricolmo di fiore a supplirne l'assenza. Peccato davvero che non sia riuscito a vivere abbastanza per poter vedere il teatro risorgere, altrimenti chissà quante mance avrebbe lasciato alle maschere. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money. quando diciamo che non tutta l'avarizia viene per nuocere, ma soprattutto che c'era una sorpresa nella storia di avarizia che vi stavamo raccontando, intendevamo questo. La storia del teatro sociale di Villa Strada è una storia che, insomma, se andate a cercare, soprattutto se vedete, se guardate le foto di questo teatro, capite che tipo di gioiello sia: un teatrino all'italiana tipico, con tre ordini di palchi, la platea è un palco meraviglioso. Ce l'ha mandata Andrea, ora sentiamo Le Strade in diretta e poi torniamo per sentire Andrea con la sua viva voce. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E la storia che vi abbiamo raccontato, quella del teatro, ma soprattutto del maestro Pietro, ce l'ha mandata Andrea, e Andrea ovviamente al telefono a noi. Pronto, ciao Andrea, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Quando è stata l'ultima volta che sei stato tu nel teatro di Villa Strada? Allora, a fine gennaio sono andato a vedere un quartetto d'archi che faceva musica rock, era il 24 gennaio mi pare. Perché a questo punto il teatro è attivo, ha un suo cartellone, ha un suo... Molto attivo, anche se siamo quello paese di campagna, comunque è molto attivo, fanno musica, fanno opere, fanno varie rappresentazioni, quindi vi invito anzi andare sul sito del teatro e venirle a vedere in diretta. Assolutamente, se siete di Mantova o zona limitrofe, anche perché non immagino che non ci siano tantissimi paesi in quella zona, al di là di Mantova che ha un teatro molto bello, però che ci siano tanti paesi con un teatro, con un gioiello di quel tipo nel loro centro. In effetti è veramente particolare, ci sono dei bei teatri in zona, se studiamo Sabbioneta che abbiamo un mondo a parte, cittadino dell'UNESCO, gli altri teatri che sono nei paesi generalmente sono più simili ai cinema, ecco, senza voler togliere importanza a nessuno, mentre quello è veramente molto bello, insomma. Senti, ma io non ho capito molto bene la storia del condominio teatro, cioè praticamente questo era un teatro che aveva tantissimi soci, cioè che tantissime persone ci hanno messo dei soldi e quindi era in comunione con diverse famiglie, dico bene? Mi hanno spiegato così, erano 30 soci, non erano neanche tantissimi, avevano delle quote e praticamente il condominio teatro, questo atto notarile con cui ognuno aveva una piccola quota di questo teatro con cui è stato fondato. Il problema grosso è stato... c'era la volontà di intervenire per sistemare il teatro a fine anni 90, però per poterlo fare andava espropriato, solo che queste quote erano di proprietà di persone che nel frattempo alcune erano rimaste a Villa Strada, ma molte erano andate all'estero, e quindi ci voleva, per fare un esproprio ci voleva una minima, la percentuale per poter fare questa operazione. È stato un lavoro molto molto molto lungo e molto difficile da fare, insomma. E scusami, e tecnicamente la cosa da fare, tu ce lo racconti, è far pubblicare alle ambasciate dei paesi in cui si trovano queste persone che se ne sono andate dall'Italia, sì, da Villa Strada, e la richiesta di esproprio, in modo che se passano 90, il solito silenzio assenso, insomma, se dopo tre mesi nessuno dice niente. È come se un tuo nonno avesse questa quota, lui fosse andato in Brasile, e tu potresti dire: è una quota mia, posso anche oppormi, posso fare una decisione diversa. Quindi la procedura legale è quella di mettere nelle ambasciate appunto questa richiesta di esproprio. Se nessuno si fosse opposto nei termini, pare 90 giorni, si poteva procedere avendo la maggioranza delle quote, ecco. Quindi è un lavoro molto molto difficile. Chiarissimo, molto chiarissimo. Senti, però la figura chiaramente, insomma, il vero protagonista, come dici tu, è il maestro Pietro. Quanti anni prima viene a mancare rispetto al 2011, che è il giorno in cui riapre il teatro, l'anno in cui riapre il teatro? Lui viene a mancare nel 2007, se non ricordo male. Nel 2007, dopo pochi mesi, il notaio apre il testamento e salta fuori questa sorpresona, che questo lascito enorme all'associazione degli amici del teatro, appunto, quasi 1,5 milioni di euro, oltre alla sua casa, una casa liberty molto bella. Tu l'hai conosciuto? L'avevi conosciuto lui? Ce l'avevi avuto come maestro? Sì, non benissimo, però, perché era una persona già anziana quando lo conoscevo io, però lo conoscevo, insomma, era una figura un po' particolare, molto molto schivo, aveva queste abitudini, diciamo, francescane proprio di vita. Noi non capivamo mai perché sempre vestito uguale, sempre con gli stivali di gomma, insomma, era curiosa come figura. Ma tu hai conosciuto qualcuno che ce l'ha avuto come insegnante, immagino? Sì, ha insegnato nei paesi limitrofi, sì, insomma, quasi in un paese piccolo, un po' lo conoscevamo tutti. Senti, lui adesso ha un palco dedicato in teatro, il palco reale? Allora, non ha un palco dedicato, però quando mi ha fatto l'inaugurazione in ottobre del 2011, il palco centrale era coperto di fiori, appunto, era... è stato dedicato a lui, ecco, per tenerlo riservato alla persona che poi ha reso possibile ricostruire il teatro. Sono due le figure, un po' sia il maestro che questo Lauro, certo, che purtroppo non è morto anche lui, però ho avuto la fortuna di almeno di vedere inaugurato il teatro, che ha svolto tutta la matassa burocratica, che era veramente enorme, una persona molto competente. Andate a vedervi sabato, ad esempio, sabato sera, sono qua sul sito del teatro, sabato 22 febbraio alle 21 c'è uno spettacolo che si chiama Bella Prof al Teatro Sociale di Villa Strada. Grazie ancora Andrea per averci raccontato questa storia e avercela fatto conoscere. In bocca al lupo per tutto, a presto, ciao ciao ciao. E abbiamo chiuso la scorsa settimana la nostra storia seriale dedicata al vizio dell'ira. Ve la ricorderete, Giorgio Bazzega ci ha raccontato all'incirca, nell'arco di un mese e mezzo, che cosa è significato per lui nascere con, senza un padre, o perlomeno nascere con un padre ma perderlo immediatamente per mano delle Brigate Rosse, e quindi covare quell'ira profondissima nei confronti di quegli uomini e poi in qualche modo guarire, come ci ha raccontato lui. Oggi cominciamo una nuova storia seriale dedicata ad un nuovo vizio capitale, che in questo caso è la superbia. Mauro Pescio, che cura con grande attenzione, con grande mano, questa parte di Linee d'Ombra, ci ha raccontato in questi mesi le storie alle quali stava lavorando, e questa, quando ce ne ha accennata, noi sono tremate le vene e i polsi, come si diceva un tempo, perché è davvero una storia che in parte ci ha toccato. Noi probabilmente l'abbiamo sentita, così come ogni tanto sentiamo, accendendo la televisione o guardando un telegiornale qualunque online, oppure ascoltando un GR, che qualche tizio armato è entrato in una scuola, per lo più negli Stati Uniti, succede soprattutto là, ahimè, anche per il fatto che le armi sono molto disponibili in quella zona di mondo, e ha cominciato a sparare contro gli studenti. Ecco, questa storia arriva da là, arriva da uno di questi fatti, e una di quelle ragazze, una sopravvissuta, ce l'ha raccontata tramite la voce del padre, l'ha raccontata proprio a Mauro. Come c'entra la superbia in un fatto come questo? Mettetevi comodo e lo scoprirete. La superbia è il vizio di chi è innamorato della propria bravura. È il vizio di Lucifero, che cade per la propria superbia, e anche di Icaro, che malgrado gli avvertimenti del padre di non volare troppo in alto, si fece prendere dall'ebbrezza del volo e si avvicinò troppo al sole. Il calore fuse la cera con la quale il padre Dedalo aveva fabbricato le ali, e Icaro precipitò nel mare, dove morì. Dante, nella Divina Commedia, dedica l'undicesimo canto del Purgatorio al vizio della superbia. Il protagonista è il miniatore umbro Oderisi da Gubbio, che di fronte alla ricerca del successo, del continuo primeggiare, a Dante dice così: «Non è il mondar romore altro ch'un fiato di vento, cor vien quinci or vien quindi, e muta nome perché muta lato». La superbia sembra quasi un errore di valutazione di se stessi, un errore che scatena delle conseguenze spesso drammatiche. Per questo motivo abbiamo deciso di raccontarvi una storia che arriva direttamente dalla cronaca. Il mattino del 14 febbraio del 2018, esattamente 2 anni e 3 giorni fa, alla Marjorie Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, un ragazzo di 19 anni, di nome Nicholas Cruz, entrò armato nelle classi e aprì il fuoco. Le vittime di quella strage furono 17 e molti furono i feriti. Si è trattato di uno dei casi con il maggior numero di vittime di sparatorie in ambito scolastico nella storia degli Stati Uniti, superando anche il massacro della Columbine School. Tra gli studenti sopravvissuti c'è Cheryl, una ragazza di origine italiana, a 17 anni. Mauro l'ha incontrata insieme a suo padre, Giacomo. Cheryl è nata in Italia, a Roma. Quando aveva 2 anni, il papà ha deciso di trasferirsi a Londra, dove hanno vissuto per 5 anni, e poi da lì si sono trasferiti a Miami nel 2011. Uno dei maggiori motivi per cui siamo andati negli Stati Uniti e soprattutto in quella zona lì era proprio la scuola dei bambini, perché non è che a me mi faccia impazzire quella zona, è molto suburban, preferirei stare vicino al mare, però le motivazioni principali erano proprio la scuola. Adesso come genitore mi sento pure quasi un po' in colpa, che dico, cioè, l'ho messi a tiro praticamente, e adesso è un momento di riflessione anche per noi come genitori, perché come ho detto eravamo lì proprio per quel motivo lì. Adesso insomma mi sembra la decisione più stupida che abbia mai preso. Ovviamente uno non può farsene troppo una colpa, sì. Noi abbiamo provato a dargli il meglio, però adesso stiamo valutando, infatti stiamo anche valutando proprio di tornare in Italia, adesso che hanno la cittadinanza americana, siamo riusciti a prendere la cittadinanza americana, gli ha aperto anche questo mondo, insomma avranno più possibilità nel futuro. Era tutto molto calcolato, adesso rimane un po' così, dici, boh, non so se ho fatto la decisione giusta. E questo è solo l'inizio, è solo la prima puntata della nostra storia seriale. Vi ricordo che potete riascoltarla in blocchi da 5, se ne avete voglia, il sabato sera alle 21.30 qui su Radio 24, oppure andando a cercare i podcast sia di Linee d'Ombra, sia ovviamente solo ed esclusivamente della storia seriale. Leggo un messaggio che mi è arrivato al 349-238-6666 per chiudere, a proposito di persone come il maestro Pietro, cioè di persone che conducono una vita che appare una vita miserabile, e poi invece lasciano lasciti profondissimi e amplissimi, in questo caso che vanno a fare del bene addirittura a tutta la comunità regalandole ad un teatro. Dice: Milano è piena di queste persone, si chiamano radical chic o poveracci con i soldi. Davide, leggo un giudizio in questo messaggio di Davide, ma lo ringraziamo per avercelo mandato. Ora sentiamo il GR, noi torniamo domani puntualissimi alle 15 per raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!